Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa ed insieme a Franco e Francesca faccio parte dell'associazione Energicamente. Nella puntata di oggi vorrei parlarvi della legge di attrazione e del Reiki. Che cos'è la legge di attrazione? Spesso ci domandiamo perché mi capitano sempre le stesse situazioni dolorose, come se ci fosse un copione che si ripete. Perché se ho un'idea o una persona in testa, ogni cosa me la ricorda e ne parla? Il nostro corpo è energia, ogni più piccola parte di cui siamo composti, così come ogni cosa che ci circonda, e così come i nostri pensieri e le nostre emozioni, tutto è energia, come il Reiki. L'unica cosa che ci fa avere una percezione differente della densità e pesantezza delle cose e di noi stessi è la diversa velocità della vibrazione delle particelle. Queste vibrazioni hanno una frequenza esattamente come quelle di una stazione radio da cui adesso vi sto trasmettendo. E la legge di attrazione dice: ogni cosa attrae il suo simile. Ogni cosa attrae altre cose che hanno lo stesso tipo di vibrazione, per cui noi, attraverso la forza delle attrazioni, attiriamo nella nostra vita tutto ciò che è la nostra stessa vibrazione. La nostra frequenza vibratoria è composta da le nostre preferenze, le nostre paure, eccetera. Tutto ciò a cui dai attrazione e intenzione verrà a te. E anche in questo caso vale anche per le emozioni inconsce che ti attraversano. Per esempio, se parli o pensi a un amico che è da tanto che non vedi, improvvisamente ti arrivano sue notizie o altre persone te ne parlano all'incontro. Per coincidenza, parlava di te proprio ieri. Se non facesse parte del tuo inconscio, se non facesse in qualche modo parte delle tue vibrazioni, se non potrebbe nemmeno far parte della tua vita. Nulla che è in disaccordo con te e le tue vibrazioni può entrare nella tua vita. Nulla. In che modo? È semplicissimo. Se dai attenzione e energia aspettativa a ciò che fa vibrare il tuo cuore, attrarrai quello escludendo tutto il resto. C'è un grosso, enorme ma, che è il limite, il muro contro il quale normalmente tutti noi si va a sbattere nella foga di creare attraverso la legge di attrazione, prima di aver co realmente compreso cosa sia e come funziona. Il tuo polo d'attrazione continua ad essere inclinato, influenzato dal passato, dalle emozioni basse, dalle memorie tue e del tuo albero genealogico e da tutto ciò che è ancora presente nel tuo inconscio. Quindi, alla luce di quanto compreso, a questo punto dovresti iniziare a scegliere sempre la luce, cioè l'interpretazione positiva di ogni evento, e quindi sempre il bicchiere mezzo pieno. E che è ora di fare qualcosa in merito, perché sei te responsabile di ciò che hai attirato. Hai il potere di attrarre qualcosa di completamente diverso. I nostri pensieri, consci e inconsci, devi pensare a questo, ai nostri ricordi, alle memorie inconsce nostre, dei nostri parenti, dei nostri antenati, alle vite, altre vite e di persone a noi collegate, quindi le nostre conoscenze karmiche. Pensa ai nostri traumi, tutte le persone, le esperienze, gli oggetti di cui la vita è composta ti sono arrivati in questo modo perché li hai attirati tu. Sulla legge di attrazione è stato ormai scritto moltissimo. È una delle cose più comuni che si legge. È che se tu inizi a controllare i tuoi pensieri e le tue emozioni, inizierai anche ad attirare alla tua vita tutto ciò che desideri. Questo in teoria è assolutamente vero e in parte funziona. Se non fosse per tutti i pensieri inconsci, le memorie, le emozioni tue e non tue, i traumi rimossi di cui non sei assolutamente consapevole, e che fanno da sfondo pesante e fisso sui tuoi pensieri consci. E soprattutto, questo è tutto ciò che attrai. E intanto è importante dire che noi siamo soggetti sia alla forza di attrazione che alla forza di separazione, attivate dalle nostre emozioni positive e negative, amore o paura, quindi attrai ciò che ami. Ma soprattutto, essendo la paura una sensazione più forte, attrae anche ciò che temi. Se pensi alla tua vita, puoi individuare molte situazioni in cui la legge di attrazione si manifesta. Allo stesso modo, se temi qualcosa, di conseguenza la tua attenzione interiore e la tua energia sono concentrate lì. Influenzi gli eventi attirando proprio ciò che temi. Diventi un magnete per quello di cui hai paura o ti preoccupi. Se ci pensi, quando ti aspetti che una cosa vada male, che capita una brutta cosa, puntualmente la cosa avviene e quindi dici: vedi, lo sapevo, la sentivo. In realtà è il contrario, l'hai attirato tu. E poi ci sono tutte quelle cose che accadono, soprattutto spiacevoli e dolorose, che non riesci assolutamente a spiegarti, ti danno la sensazione che ci sia quasi un accanimento contro di te. Quello è il reame dell'inconscio. Questo spaventa veramente, perché non abbiamo controllo su di lui, non sappiamo cosa abbiamo dentro e quindi non possiamo prevedere quello che succederà. Ci sentiamo in balia degli eventi, dell'ombra che vive in noi. In realtà cosa c'è nel nostro inconscio lo sappiamo e lo possiamo vedere benissimo. È sufficiente guardare fuori di noi, quello ci circonda, qualunque cosa, perché quello è il maggiore specchio del nostro inconscio. Chiaramente nel momento in cui tu cominci a comprendere la legge di attrazione, puoi iniziare a fare qualcosa. La forza di attrazione e la forza di separazione sono sempre in funzione, sia che tu ne sia consapevole, sia che tu ne ignori, sia che tu decida di sfruttare intenzionalmente, sia che tu emetta nell'universo pensieri e emozioni casuali, a seconda di che tipo di emozioni provi, sei soggetto all'uno o all'altro. Ma se decidi di entrare nella forza di attrazione esprimendo l'intento di riunirti, quindi essere un essere puro e con un unico scopo e pensiero, non c'è niente che tu desideri che non possa avere, non c'è niente di cui tu non desideri che tu non possa escludere la tua realtà. Ripulirti il più possibile da pensieri e emozioni, memorie e traumi che trattieni nel tuo inconscio. Esistono varie tecniche che puoi utilizzare da solo, molto semplice, per iniziare a ripulirti. Devi iniziare a concentrarti intenzionalmente solo quello che ami e che ti piace. Devi guardare sempre solo gli aspetti positivi delle persone, delle cose e delle situazioni. Scegliere sempre coscientemente persone, pensieri, persone, azioni e parole. Aiutarti con il Reiki a ripulirti ed avere un equilibrio energetico, perché questo fa sì che tu tolga tanta schifezza da dentro di te e soprattutto, ultimo ma molto più importante, sii sempre onesto con te stesso. È la cosa fondamentale, perché se dici, nonostante ti sia accaduta una cosa cattiva, meno male, doveva accadere, ma in realtà dentro di te pensi: che grande cattiveria mi è capitata nuovamente. È quello che te pensi realmente che sta lavorando, quindi stai portando negatività nella tua vita nuovamente. Te lo dico perché è un errore che facciamo tutti comunemente quando iniziamo a lavorare sulla legge di attrazione. Succede una cosa negativa, ma guarda, in realtà è stata una cosa positiva, perché se non mi succedeva, ma dentro di te pensi: Madonna, se non mi succedeva era molto meglio. Ti do un consiglio molto importante: non cercare di attrarre nulla di importante alla tua vita, come situazioni particolari, partner, lavori. Se fai questa attività unicamente da solo, non oggi almeno, non subito, non finché non ti sei ripulito da buona parte della tua vita, da spazzatura in coscia, non finché non avrai iniziato ad amarti, non finché non ti sarai ripulito a livello energetico. Se ti serve supporto per comprendere la legge di attrazione, come funziona, per ricordare e realizzare il sogno della tua anima, per prima cosa inizia a leggere, ad esempio, The Dream Coaching, la legge dell'attrazione di Esther e Jerry Hicks, The Power di Rhonda Byrne, così come The Secret. Ma soprattutto, all'inizio, lavora su te stesso, studia, leggi, fatti aiutare. La legge di attrazione può cambiare la vita delle persone, ma per prima cosa devi cambiare tu. E se hai bisogno, io, Franco e Francesca, possiamo aiutarti. La puntata di oggi si conclude, ma prima di salutarvi, come sempre, vi voglio lasciare i nostri contatti. Il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono Elisa 339 3860 123, Francesca 340 2345 340, Franco 329 89 89 669, la nostra pagina Facebook Energica. E nell'augurarvi un buon weekend e un bellissimo lavoro su voi stessi, vi saluto e ringrazio Davide e Giorgio per la bellissima opportunità.